perché Damaro sente il sapore della pietade acerba. Ella si tacque, e gli angeli cantarono di subito: «In te, Domine, speravi», ma oltre pedes meos non passarono. Sì, come neve tra le vive travi per lo dosso d'Italia si congela, soffiata e stretta dagli venti schiavi, poi liquefatta in se stessa trapela, purché la terra, che perde ombra, spiri, sì che per fuoco fonder la candela, così fui senza lagrime e sospiri, anzi il cantar di quei che notan sempre dietro alle note degli eterni giri. Ma poi che intesi nelle dolci tempre lor compatire a me, par che se detto avesser: «Donna, perché sì lo stempre?» L'ugel che m'era intorno al cor ristretto, spirito e acqua fessi, e con angoscia della bocca e degli occhi uscì del petto. Ella, pur ferma in sulla detta coscia del carro stando, alle sostanze pie volse le sue parole così poscia: «Voi vigilate nell'eterno die, sì che notte né sonno a voi non fura passo che faccia il secol per sue vie. Onde la mia risposta è con più cura che m'intenda colui che di là piagne, perché sia colpa e duol d'una misura. Non pur per ovra delle rote magne che drizzan ciascun seme ad alcun fine, secondo che le stelle son compagne, ma per larghezza di grazie divine, che sì alti vapori hanno a lor piova che nostre viste là non van vicine, questi fu tal nella sua vita nova, virtualmente, ogni abito destro fatto avrebbe in lui mirabil prova. Ma tanto più maligno e più silvestro si fa il terren col mal seme non colto, quant'egli ha più di buon vigor terrestro. Alcun tempo il sostenni col mio volto, mostrando gli occhi giovanetti a lui, meco il menava in dritta parte volto. Sì, tosto come in su la soglia fui di mia seconda etade e mutai vita, questi si tolse a me e diessi altrui. Quando di carne a spirito era salita, e bellezza e virtù cresciuta m'era, fui a lui men cara e men gradita, e volse i passi suoi per via non vera, immagini di ben seguendo false, che nulla promission rendono intera. Né l'impetrare ispirazion mi valse, con le quali e in sogno e altrimenti lo rivocai, sì poco a lui ne calse. Tanto giù cadde che tutti argomenti alla salute sua eran già corti, fuor che mostrarli le perdute genti. Per questo visitai l'uscio di morti, e a colui che là quassù condotto li prieghi miei piangendo furon porti. Alto fato di Dio sarebbe rotto se le tesi passasse e tal vivanda fosse gustata senza alcuno scotto di pentimento che lagrime spanda». Fine del 30° canto del Purgatorio.